24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Noi siamo abituati da un cliché costante a dire che in Italia, che l'Italia è un insieme di sfighe. Conosciuto come un gran bugiardo. Però il racconto tipico del format televisivo è: l'Italia è un insieme di sfighe, le cose non funzionano. Viceversa, gli altri cosa rispondono? I ristoranti sono pieni, va tutto bene. No, non è così. C'è bisogno di dire con chiarezza che noi dobbiamo cambiare il nostro paese. Non chiamatemi artista, io ti creo un altro mondo, lo sa anche il mio analista. La realtà mi spaventa da ogni punto di vista. Il mio sogno in verità era fare il giornalista. Ho rap e il modo drammatico da crisi domestica. Sfigati. In camera c'ho un batter a letto, un'anoressica. Fibra, questo è il problema. Sfigati. Siamo degli sfigati. O meglio, descriviamo l'Italia come un popolo di sfigati. Ecco, questo è il problema. È lo storytelling. Imparate ad abituarvi a questa cosa qui. Lo storytelling è come racconti le cose. Noi raccontiamo che l'Italia è fatta di sfigati, che non ce la si fa, che tutto va male, e questo è il problema per Renzi. Non che ci siano gli sfigati, ma che esageriamo nel racconto delle sfighe dell'Italia. Invece l'Italia, ci sono tante cose che vanno bene. Intanto una cosa va bene: è venerdì. Fibra, ti tolgo dal mio stereo perché porti sfiga. Sono le 6:34 minuti e siamo qui, è venerdì. E si chiude l'81esima settimana decisiva per la riforma elettorale. Robe che interessano a Marione, ad Inolfi, certamente. Questo sì, è Marione. Oggi, buongiorno. Buongiorno, interessantissima l'81esima settimana. Ah, guarda, cos'è successo in questa 81esima settimana decisiva per la riforma elettorale? Beh, per esempio, ieri si è discusso dell'estensione dell'Italicum al Senato, che è una questione importante, considerando che avevamo detto che il Senato si aboliva. Quindi il meccanismo, come vedi, si intorcina ancora un po' di più a fusillo. E la cosa è bello. Ti appassiona, questa molto cosa. Molto interessante. Oggi infatti Repubblica fa una pagina sulla legge elettorale, credo a pagina 4, lo fa apposta per te tutte le volte. L'Italicum in alto mare, il nuovo. Vedi che siamo ritornati a navigare in mare aperto, sì. Già. Sono casini, sono sfighe. Qui sono le 6:35 minuti. Saluto Lorenzo Nespoli, è in redazione insieme all'Alpino Peter Bescapè, il Parlamento che può aprire. Dai, che c'è un caffè per Maria Elena Boschi. Adesso subito vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo più tardi. Grazie. Forza, caffè per tutti. Allora, cari ascoltatori, scrivetecelo al 349-238-6666 se davvero è così secondo voi. Cioè, raccontiamo un po' troppe sfighe, ma in realtà l'Italia non è un paese così sfigato come lo raccontiamo noi, come lo raccontano i giornali. Marione, tutto non è neanche il popolo del tutti al ristorante, quindi non c'è la crisi. No, c'è un colpetto al cerchio, un colpetto alla botte. Insomma, la gomitatina in faccia a Berlusconi, ma allo stesso tempo lo storytelling della nuova sinistra. Lo storytelling, qualche storia va raccontata, insomma, per riempire, no? Far volume. Volume. Intanto, che succede all'imperatore Renzi, l'imperatore come l'hai definito te? Che insomma, dovunque va c'è qualche piccolo problemuccio, a parte che ieri i giornali fanno notare che il Paladozza di Bologna, dove ha chiuso la campagna elettorale per l'Emilia Romagna, non era proprio pienissimo, c'è stato anche un questo è incredibile, un assalto al circolo del PD a Bologna ieri quando c'era Renzi. Oh, li hanno sfasciato una sede, che hanno fatto? Queste sono, Marione, queste sono botte piccolate, botte alla Saracinese. Bologna è diventata una piazza molto complicata, ricordiamo che c'è stata la vicenda dell'assalto alle sentinelle in piedi, poi le botte a Salvini, adesso questa storia sul PD. Insomma, io fossi nel sindaco Merola e anche nel prefetto, nelle forze dell'ordine, insomma, un'occhiata un po' più attenta a quello che avviene nell'area dell'antagonismo bolognese la darei, insomma, perché francamente non è accettabile, questo possiamo dire una qualche chiarezza, insomma. No, tra l'altro devo dire questa cosa. Ieri ho incontrato Mariona Dinolfi, abbiamo fatto anche un selfie per l'amore di tutti gli amici di Twitter. È andato fortissimo. Sono partiti subito una valanga di insulti, eccetera. E mi raccontavi, Marione, che dovunque vai a presentare il tuo libro, anche qui basta, omofobo, non devo più invitare quell'omofobo di Adinolfi. Io invece invito tutti, anche se magari su tante cose non sono d'accordo con Mario, sulle idee che ha, però questo è il bello. Che dire, mi hai raccontato che dovunque vai c'hai la polizia, schieramenti di polizia. Abbastanza massicci, sì. Sono stato a Bologna, a San Giovanni in Persiceto, 48 ore fa, e c'erano 40 agenti di polizia. 40 agenti per un libro. Tra polizia e carabinieri, anzi, salutiamo anche il capitano dei carabinieri che era lì. Va bene, salute, come si chiamava? Come si chiama? Era una donna, però questo non ricordo. Che alla fine ha chiesto anche il mio libro. Non è che ha chiesto anche il tuo numero. È rimasta convinta. Non si può dire, c'è una moglie che dorme, ma poi lo viene a sapere. È classico. Tu hai la classica tattica: libri con cellulare per le donne dentro, certo, e libri senza cellulare. Dedica, esatto. eccolo lì, l'uomo contro il divorzio. E intanto ha divorziato. Bravo. C'è il divorzio velocissimo adesso, lo sai, il divorzio istantaneo. Istantaneo, track. Ecco. Track, decidi, sposi, il minuto dopo sbagliato, tac, mi divorzio. Vabbè, insomma. Pare possibile schieramenti massicci di polizia per un libro? Un libro, uso questo aggettivo, il peggiore della storia degli ultimi 15 anni, divisivo, però un libro che fa discutere, ma insomma lasciateglielo presentare. Pensa che io stasera, oggi alle 18:30 sono a Montevarchi, il comune di Montevarchi ha fatto un tweet dicendo: c'è Adinolfi oggi a Montevarchi al centro San Ludovico. È partita una sequela, una randellata di insulti al povero comune di Montevarchi, che a un certo punto ha dovuto dire: ma noi abbiamo solo dato la notizia che Adinolfi chiudiamo qua, il comune di Montevarchi subito, aboliamo il comune di Montevarchi subito, abolito. Vabbè, parliamo di queste cose di Twitter, insomma. C'hai qualcosa, guarda che anche il mio pubblico sta su Twitter, anche... lo sai che c'è una certa anche il tuo pubblico sta su Twitter. Vabbè, allora, tra l'altro devo dire, oggi ci deve essere Paolo Del Debbio, ha avuto problemi all'ultimo momento, quindi siamo no, posso testimoniare che si è svegliato, ha detto no, mi devi lasciare, un po' trafelato, no, vabbè, comunque tutto a posto. Siamo con Mariona Dinolfi, come detto. No, però io questa cosa la vorrei capire, perché dove va Renzi ci sono contestazioni, ormai ha lanciato questo slogan: mi lanciano le uova, ci faremo delle belle crepe. E allora però, Mario, qua non è che si può sempre buttare tutto in battuta in questo storytelling. La questione è che dovunque va ci sono contestazioni. E lui dice, che dice, i sindacati passano il tempo a organizzare gli scioperi e io invece creo posti di lavoro. Ieri l'ha detto questa RTL, senti un po', senti un po'. Io invidio molto quelli che passano il tempo a organizzare gli scioperi, mi riferisco non tanto alle lavoratrici e ai lavoratori, ma agli organizzatori, ai sindacalisti. Sa che ci sono stati più scioperi in queste settimane che contro tutti gli altri governi. Insomma, la questione è, anche oggi Repubblica dice no, però Renzi, il linguaggio, dire io creo posti di lavoro e quegli altri inventano gli scioperi, ma Marione, adesso arrivano le contestazioni, dovunque va. Ma sì, ci sono, figurati, contestano me per voglio la mamma, ma contestano Renzi, è ovvio che insomma, è un paese dove in questo momento ci sono anche tra l'altro ragioni per contestare, ci sono organizzazioni a cui serve per visibilità organizzare una contestazione. A me piace l'atteggiamento di Renzi rispetto a queste contestazioni, cioè dire contestatemi ma vado dritto, perché questa è una cosa che mi fa capire che lui qualcosa in testa ce l'ha, un'idea, un percorso ce l'ha, che non si fa intimidire, cosa utile a mio avviso. Un governante deve avere un polso, e questo giocare di polso in questa fase secondo me è una cosa che fatto porta anche bene politicamente. Negare i problemi no, questo è l'elemento nodale, negare i problemi no, cioè dire che le contestazioni sono sempre immotivate o gli scioperi sempre immotivati, ovviamente secondo me può essere persino un errore di linguaggio territorio dove Renzi è maestro. Però c'è una sensazione di regia, insomma, no? Che ogni volta che c'è il passo in una città c'è il gruppetto organizzato, che so, la sensazione di regia c'è. Beh, la sensazione è questa, però. Non credo che sia una reazione spontanea della cittadinanza ostile a Renzi. Ecco, questo è il meccanismo che. Ma certo, c'è quando si alza la tensione un po' una regia, cioè dovunque va è chiaro che chi... succede su di me, figure se non succede sul Presidente del Consiglio un momento di crisi, cioè è ovvio che c'è una situazione del genere. Sì, ma è sintomatico di qualcosa, perché Renzi che dice vinceremo in Emilia, ma diranno già che non hanno votato in tanti, come se fosse una cosa che chi se ne frega. Ma è un mettere un po' le mani avanti, dai. Siccome non voteranno in una marea, e questa cosa sarà un elemento più o meno, diciamo così, cronico per la democrazia italiana, in special modo in una condizione imperiale come questa, perché la democrazia e la partecipazione al voto si nutre della dialettica reale, cioè quando c'era la corsa Grillo contro Renzi, cioè le ultime europee, c'era una passione un po' diversa intorno alle elezioni. Adesso invece c'è Renzi, Salvini, Matteo. Ma che partita è? Matteo. Secondo te, come si chiama il candidato alla presidenza della regione della Liga? Non si chiama Salvini, manco Aurora Lussana. Sai che oggi Aurora Lussana, oggi la Padania, mi è arrivata una mail accorata ieri alle 20, tipo alle 20, no, dicendo continua l'assemblea dei lavoratori di Radio Padania di la Padania, e quindi domani la Padania non sarà in edicola. Quindi oggi neanche domani, già hanno cominciato. già hanno cominciato. Ma non prenderla in giro! Anche perché avendo chiuso l'unità, la Padania, Europa nel giro di un mese, sostanzialmente, dovendo io fare un quotidiano tra poco, sono un po' atterrito. Chiudono i giornali, Adinolfi cosa fa dal 13 gennaio? Esce con il quotidiano. Io lo dico sempre, la testata, la croce, ieri l'hai vista. Mi ha fatto vedere la testata, è rosso-nera, signori, è rosso-nera, la testata. Bianco, nera e rossa, diciamo, i tre colori nodali, bianco, il bianco lascialo da parte, è rosso-nera, mentre ci scrive Silvio, che non è Silvio, ma dice Silvione. Sono, no, non credo, perché ci scrive, sono sul regionale Terni-Rosso. Roma delle 5.45 e non sarei uno sfigato io. No, ma dai. È un lavoratore, sì. Sei un lavoratore. Esatto. Tutti, perché noi che siamo in piedi, amico mio. Quello siamo vabbè, lavoratori. Tu sarai sdraiato da qualche parte, se no sarai... Mi hai svegliato, io sono come del debito, non ho avuto il coraggio di dire che voglio dormire. Ma no, non è vero, non è vero. Comunque, Matteo, questa è la sfida in Emilia Romagna, dopo il traffico e dopo la segreteria telefonica più amata dagli italiani e da Mario Dinolfi. Massima di Confucio, ogni paese ha il traffico che si merita. Signori, ecco il nostro. 24 mattino. Ieri ho sentito un politico che affermava: mi hanno strumentalizzato, povera creatura, chissà che dolore. Hai fatto sentire che sei un popone, ma che sei simpatico come un'audienza. Non l'hai fatta sentire, falla sentire, no. Io volevo sapere come la Svizzera o i giornali svizzeri hanno appreso la non condanna dell'Eternit. Grazie. Quando Diego della Valle parla di Marchionne e dice che le macchine devono essere fatte da uno che ha fatto macchine, ha perfettamente ragione. Non puoi mettere a fare gli aerei un sociologo, a fare le macchine un finanziere. Questi non capiscono una beata minchia di quello che stanno facendo. Hi Alessandro, you have a cretino. Bye bye George Clooney. Grande Dinolfi, viva Dinolfi! Viva Dinolfi, figli si fanno facendo l'amore! A Dinolfi, bravo! Bravo, bravo! Milan, come mai non parli più della Rossella Brescia? Che la tua moglie sta pettinando a modino, eh? Vedrai, ora è tutto silenzio. No, Marione. Ma che è successo? Non ho capito, era un fan, era ironico, non ho capito. No, perché dice che mia moglie, non parlo più di Rossella Brescia, ma come no, straordinario. Ormai l'hai avuta in radio. Ma no, straordinario, amore mio, Rossella Brescia, amore platonico, ma che vuol dire? Anzi, stasera è a Milano, a teatro, e io sarò lì a guardarla, ad ammirarla. C'è anche mia moglie, eh. Vai a teatro a vedere Rossella Brescia. Ma perché? Non si può. Ma straordinario proprio. ma che vuoi? Non sei mai venuto alla mia presentazione, adesso ti faccio una scenata in giro. Te ne ho fatte 125 in giro per l'Italia. Vabbè, sono Rossella Brescia a teatro, che cosa deciderà? Qui qua i paperoni. No, smettila. Ibsen, non credo le fanno fare Ibsen, Sei veramente okay. Geloso, questa è la verità. Sì, un po' sì, un po' ecco, sì, ammettilo. Sei veramente geloso, quindi questo lo dobbiamo dire. Allora, Matteo, tu hai detto chi è il candidato dell'Emilia Romagna? L'hai scoperto su Google, hai googlato come si chiama. Si chiama Alan Fabbri, ma comunque è chiaro che è candidato Salvini, cioè tutti votano. Ma perché, scusa, sì. Chi è il candidato dell'Emilia Romagna del PD? Come, con chi è? Stefano Bonaccini. Vabbè, ho capito, e io ti ho detto come chi è. Poi non Alan è il Fabbri. Candidato, è il presidente, è già imperatore, insomma, già imperiale, sai come funziona il sistema imperiale. Vabbè, ma da che novità c'è che si vota? La corona al vassallo, al vassallo. Scusa, perché qualcuno ha mai votato il Popolo della Libertà per votare un altro che non sia Silvio Berlusconi? Non... No, vabbè, adesso la cosa è diventata un po' più raffinata. Adesso un po' sì. Questo segmento. Comunque, sentilo qua Matteo Salvini come combatte insieme a un mito dell'Emilia Romagna, Raul Casadei. Salvini. Tu sei la stella. Salvini. Tu sei l'amore. Vuoi cantare, Marione? Io ho anche la moglie romagnola, quindi è molto complicato. Mia moglie è romagnola, di Forlì, insomma la dovrei sapere. Forlì, la dovrei sapere. Certo, ma voto a Salvini al coro. A me piace molto Salvini. No, voto per il coro, dire. Voto per l'intonazione. Ma i cori lui è un po' un problema, ricordo quello sui napoletani. Sì, è vero, Salvini, attento ai cori, Matteo. Da tifoso del Milan si lasciò andare a qualche coro un po' volgare, come dire. Cioè, ma voto, no, ma voto alla musica, alla musicalità. Sei e mezzo, dai, lo possiamo dare. Ma c'era, oh, ma c'era Raul Casadei che cantava, come sei e mezzo? Forte Raul Casadei, ma non so, quanti anni c'ha? 85, ma oggi non è che recita a teatro con Stella Breccia, no, io lo vedo adeguato. No. Sei veramente un cialtrone, sei veramente un cialtrone. Il liscio, facciamo ballare il liscio a Stella Breccia, no, oh, facciamole ballare il liscio. Comunque, questo è un paese, come leggerò in rassegna stampa, dove a Vigevano un barista mette una ciotola per abbeverare i cani fuori dal bar e si rivede beccare una multa da 168 euro per occupazione di suolo pubblico. Questo è il paese in cui viviamo, l'Italia. Vabbè, ma e per il resto invece, oh, ma Berlusconi proprio è scomparso. Vabbè, adesso sta anche in ospedale, non so se fosse. Trattami bene Berlusconi, cioè abbiamo campato 21 anni. No, ma io lo dico, 21 anni della mia vita, cioè capisci, io avevo 20, adesso mi trovo vecchio, bipadre e tutto qua, prima un ragazzino, diciamo, sciolto e senza pensieri, quindi io continuo a avere sempre. Tu hai rispetto. Allora, di omaggio per va mio... bene, allora io ti faccio sentire Berlusconi, vorrei capire che cosa ti suscita, cioè se un po' di tenerezza, adesso se rispetto, sentite un po' sui pensionati a votare. Io chiamo soprattutto i pensionati nel loro interesse, ma chiamo anche tutti gli altri elettori che, come ho detto prima, sono rimasti a casa perché non credono più in questa politica e in questi politici. No, noi ci siamo e ci saremo ancora. Ci siamo e ci saremo ancora. E poi senti questa, torno in campo. Ma il fatto del tra poco torno in campo è naturalmente una certezza di poter avere presto la dimostrazione della mia assoluta innocenza e quindi di poter ancora confermare. Marione, che pensi? Che pensi? Combatte ancora. Io non avendo mai votato Berlusconi in questi 21 anni neanche per sbaglio e sono stato anche parecchio ostile al berlusconismo come idea che la politica serve a risolvere i fatti propri, perché questo è un problema serio. Considero però sempre sbagliatissimo battere un avversario politico per via giudiziaria. Questo so abbastanza per certo che non ci sarebbe più un enorme problema con Berlusconi candidato, non è un uomo dal 40% dei consensi, quindi... Non lo so, insomma, se io dico grazie a Berlusconi, ma sai che succede oggi? Cioè, il prossimo Presidente della Repubblica, credo sarà Dario Franceschini, sì. Se firmasse un provvedimento di grazia per Silvio Berlusconi che lo riabilitasse e le consentisse di avere spazio e agibilità politica, non farebbe qualcosa di completamente sbagliato, diciamo così. Prima Fabrizio Corona e poi Silvio Berlusconi. Eccola, Fabrizio Corona nell'ordine, Corona e Berlusconi. Va bene, Corona, ma noi qua siamo a concludere, a dire che Mariona Dinolfi oggi sarà a Montevarchi, se esisterà ancora Montevarchi entro queste 18:30. Al centro San Lodovico. Ovviamente si prevedono 18 camionette della Polizia dei Carabinieri. Per tutelare Mariona Dinolfi. Ciao Mariona, un abbraccio, grazie. Alla prossima a tutti. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Forza italiani, forza debosciati amici miei, che si sta per concludere l'81esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché per l'abolizione delle province. Dai, l'ultimo sforzo! Non è stata proprio decisiva, ma ci sarà l'82esima, come diciamo sempre. E quindi ottimismo, mica come dice Renzi, che sembriamo sempre a descrivere che siamo un popolo di sfigati. Ottimismo! Noi parleremo di che cosa? Beh, avremo ospite il consigliere di amministrazione Rai Antonio Verro alle 8:45, colui che ha dato il via al ricorso contro l'azionista governo.

Che cavolo è? Lemmili in vendita per Natale, la bambola bella come la realtà, a dimensioni medie, che rispecchia le misure medie delle vere diciannovenni americane, con un kit di 38 adesivi, dotato di cellulite in adesivo, brufoli, cicatrici, sbagliature. Ma chi se ne frega? 24 mattino. Alle 8:18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Ora, il giorno dopo, tutti scandalizzati, tutti che si svegliano, tutti che dicono no contro la prescrizione. Il giorno dopo che cosa? Il giorno dopo l'assoluzione in Cassazione. La soluzione per prescrizione, il proscioglimento shock, come definiscono ancora oggi i giornali, dell'unico imputato per il disastro Eternit, migliaia di morti nei decenni. Era imputato il magnate Stefan Schmidheiny. E ora appunto tutti a raccontare della prescrizione e dello scandalo, mentre la procura di Torino dice: beh, ora proviamo il processo per 256 decessi avvenuti tra il 1976 e il 1986, imputabili appunto alla diretta responsabilità dei proprietari dell'Eternit, perché secondo la procura di Torino sapevano, agendo con coscienza e volontà, cagionavano la morte di questi 256 tra lavoratori e anche familiari degli stessi e abitanti delle zone circostanti gli impianti Eternit. Questa è la vicenda che ha creato tanto sdegno. Ne vogliamo parlare intanto con colui che ha guidato la procura di Torino nei momenti anche dell'inchiesta che è finita in Cassazione. Giancarlo Caselli, buongiorno e grazie per essere con noi, dottor Caselli. Buongiorno a voi, buongiorno. Intanto le chiedo, ovviamente, da uomo di giustizia che ha passato una vita nella giustizia, che effetto le ha fatto sentire questo pronunciamento della Cassazione dopo che lei stesso, dopo che c'erano state la condanna in appello, aveva detto: finalmente è cambiata la sensibilità nei confronti della tutela dei cittadini e dei diritti dei lavoratori. Ora cosa prova? Una sensazione di fortissimo disagio. Dovremo leggere la motivazione di questa sentenza per cercare di capire di più. Resta comunque il fatto gravissimo di 3.000 morti che non sono cancellati, la stessa Cassazione ha fatto un comunicato stampa per precisarlo, ma sicuramente, a mio giudizio, fino a questo momento non hanno ancora avuto giustizia. Non hanno avuto giustizia. Fa un po' specie per un cittadino normale, uno che non è addentro ai meandri, nei tecnicismi della giustizia, stupirsi del fatto che in appello è arrivato fino a 18 anni di carcere e di condanna, e oggi il presidente della Corte d'Appello, Alberto Ogei, in un'intervista alla stampa difende quella sentenza, e poi si scopre in Cassazione e dice: ma no, ma era tutto prescritto fin dal primo grado. Allora dove ci siamo sbagliati, Caselli? In estrema sintesi, la Cassazione ha sostenuto, si presume, si leggerà poi la motivazione per avere maggiori particolari, che quello di disastro ambientale sia un reato di pericolo e che il pericolo sia cessato con la chiusura dello stabilimento e che quindi a partire da quella data i termini della prescrizione siano scaduti. Invece pubblico ministero, primo grado e appello condannando, hanno ritenuto che il reato sia permanente perché permanenti sono gli effetti. Due interpretazioni diverse, e le interpretazioni diverse sono, come dire, la quintessenza del mestiere del giudice. Sempre il giudice deve scegliere tra due opzioni. In questo caso però, ecco, le interpretazioni sono diametralmente opposte. E come dire, ed è difficile, francamente difficile, accettare, capire come con un'interpretazione diversa da quelle precedenti si possano cancellare, di fatto cancellare, i 3.000 morti. Fatti gravissimi. È difficile pensare, soprattutto accettare, che coloro che si sono resi responsabili di questi fatti, che non li hanno prevenuti, fronteggiati, impediti, possano farla franca dal punto di vista della responsabilità penale soltanto perché è passato troppo tempo. Le chiedo questo, leggeremo certo le motivazioni, io le chiedo questo anche politicamente, sa che c'è stato subito un dibattito, anche il Presidente del Consiglio in persona, Matteo Renzi, ha detto ora cambieremo la prescrizione. Repubblica oggi fa notare che questa prescrizione da cambiare giaceva nel cassetto un po' silente, un po' dormiente da 90 giorni dopo un'approvazione a giugno come decreto legislativo. Nei confronti della politica, lei che ha da dire, Caselli? Guardi, da 90 giorni per quanto riguarda l'ultimo tentativo, sì, certo. Da, non voglio esagerare, 90 anni per quanto riguarda la necessità di riformare la prescrizione, la disciplina della prescrizione. Noi siamo l'unico paese, sostanzialmente l'unico paese di democrazia occidentale nel quale la prescrizione non si interrompe mai. In tutti gli altri paesi si interrompe o con la condanna di primo grado o con la condanna d'appello o... per altri motivi. Da noi non si interrompe mai, allora ecco che i processi per quanto riguarda la prescrizione possono sempre essere uccisi da una mannaia che scatta. Qui il caso sembrerebbe diverso perché si sostiene che la prescrizione sarebbe cominciata a maturare, sarebbe definita prima ancora dell'inizio del processo. Però ecco, quando si dice che bisogna riformare la prescrizione, per favore bisogna farlo, non soltanto dirlo. E un modo come un altro per rispettare tutti i morti che ci sono stati, in questo caso sarebbe anche farlo. Tirarsi sulle maniche e approvarlo in un tempo finalmente brevissimo, senza di nuovo menare il can per l'aia chissà per quanti giorni, per quanti mesi e per quanti anni ancora. Intanto io voglio salutare anche Bruno Pesce, che è del Coordinamento e Sanità Associazione Familiari delle Vittime dell'Amianto. Pesce, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi buongiorno al procuratore Caselli, che fa ancora un po' di onore, anzi lui ne fa tanto onore alla magistratura, che ne ha tanto bisogno, una magistratura italiana. Pesce, la rabbia, immagino, lo sdegno, la vergogna che è stata raccolta in questi giorni non si placa, non si placherà, anche perché in un terribile racconto di cronaca anche oggi i giornali sono pieni di racconti di persone che continuano a morire per la malattia, il mesotelioma pleurico causato dalla polvere d'amianto, e continueranno. Perché voi siete più arrabbiati nei confronti di chi? Perché il procuratore Caselli però ci ha detto le interpretazioni della magistratura sono diciamo legittime, cioè che una corte interpreti in un modo il Ho definito subito, non sono un tecnico, ma da quel poco che posso capire è una sentenza che risente di una dottrina ottocentesca, in particolare del fatto che forse non è conosciuto sufficientemente un disastro d'amianto, non è stato trattato forse da questi giudici precedentemente, da questo procuratore, un disastro come quello che abbiamo noi e anche in tante altre situazioni, perché vedete è stato dichiarato prescritto il reato, ma l'amianto, la sentenza non ha prescritto l'amianto. L'amianto ha continuato ad esserci a Casale, e non solo, abbiamo subito sicuramente gli effetti negli anni successivi, ma abbiamo ancora le cause del disastro. E quindi un giudice, uno che voglia occuparsi di problemi di giustizia, è come se io mettessi una bomba a orologeria e sposto l'esplosione un minuto dopo tutta la decorrenza, se il termine è giusto, di tutto il periodo di prescrizione. Se la bomba esplode un minuto dopo, io posso continuare a metterne migliaia di queste bombe. Quello che inquieta è questo. Io devo fare un salto di qualche anno addietro. Il 2008, qui a Radio 24, quando era direttore Giancarlo Santalmassi, mi mandò per fare un'inchiesta proprio a Casale. Intervistai, incontrammo, sentimmo alcune persone e poi per telefono riuscì a parlare con uno dei dirigenti della Eternit. Perché, procuratore Caselli, gli Schmidaini non hanno mai parlato pubblicamente, forse una volta in un giornale svizzero, però parlò all'epoca, riuscimmo a intervistare Anders Holte, che era l'amministratore delegato di Eternit Svizzera, attualmente vicepresidente del consiglio di sorveglianza di Eternit. Procuratore Caselli, senta, sono, a me ha sempre molto colpito il tono ridanciano, non so perché, che avesse in questa intervista. Comunque, nel 2008 Anders Holte rispose così ad alcune mie domande. È stato sorpreso dal fatto di essere stato chiamato da Guariniello per un interrogatorio? I don't know, no. Non so, forse no. Non ricordo di essere rimasto sorpreso, ovviamente sapevamo che stava facendo questa indagine. Lei arrivò all'Eternit Svizzera nell'86. Qual era la situazione al suo arrivo riguardo alla sicurezza dei lavoratori? You know, in 86... Nel 1986 la sicurezza sul lavoro e la sostituzione dell'amianto erano i due soli grandi oggetti di attenzione da parte nostra. Abbiamo fatto molti sforzi per togliere l'amianto dai prodotti. Era l'obiettivo primario. Forse prima del suo arrivo non era così e c'era molta polvere d'amianto che veniva respirata dai lavoratori. Non so cosa fosse. Non so se loro distinguessero tra le varie polveri, la polvere normale e la polvere d'amianto. So ciò che vidi nel 1986, cioè uno sforzo immane e molti soldi spesi per ridurre e prevenire la polvere. Lei non ha paura dell'inchiesta di Torino? Per quanto ne so, all'Eternit Svizzera abbiamo fatto tutto ciò che era necessario per proteggere i lavoratori. Ovviamente non è mai piacevole avere cause legali o un processo. Nessuno lo troverebbe piacevole. Ovviamente, procuratore Caselli, interpretare i risolini non è certamente mio compito, è compito di nessuno, però le chiedo, gli imputati come si sono comportati in questi anni, per quanto lei ne ricorda, insomma, gli Schmidaini, per esempio? Ma credo che l'imputato principale, l'unico condannato, la cui condanna adesso è stata cancellata, non si sia mai presentato, non sia mai stato sentito. Di più, mi scusi, non so, perché io dirigevo la procura, curavo l'aspetto soprattutto organizzativo e del processo in sé per sé considerato, dell'inchiesta nelle sue svolte particolari, non so molto. Ma però il lato organizzativo che ho curato insieme ad altri mi consente di dire una cosa. Leggeremo la motivazione, lo ripeto per l'ennesima volta. I magistrati di Cassazione sono dei professionisti bravissimi, sapranno scrivere cose dotte, molto elaborate, sofisticate dal punto di vista della tecnica giuridica, però ripeto ancora una volta, difficile liberarsi da una brutta sensazione, la sensazione che abbiano deciso soltanto sulle carte, asetticamente, burocraticamente, formalisticamente, mentre oltre alle carte c'è la realtà di tutte queste morti, delle sofferenze, del dolore, delle vite spezzate, rovinate. Ecco, a Torino, organizzando anche questo processo, organizzando la costituzione di centinaia e centinaia e centinaia di parti civili, abbiamo visto sfilare nel Palazzo di Giustizia una fila interminabile, un piccolo esercito di sopravvissuti e parenti delle vittime. Ricordiamo nel giorno della condanna in appello le ore per leggere la sentenza, per leggere tutti i nomi delle persone. Certo. Con il presidente del tribunale che, rispettando la legge, ma anche in questo modo manifestando rispetto proprio per i fatti, la realtà, ha costretto tra virgolette tutti a rimanere in piedi per ore e ore, ecco. Tre ore, ecco, dopo quella lettura. L'impressione è che tutto questo, tutta questa realtà, al di là delle carte, sia un po' sfuggita alla Cassazione, che non abbiano avuto, forse perché non hanno avuto la possibilità di vedere tutto quello che invece nelle fasi di merito si può vedere. Sì, certo. Vorrei dire ancora una cosa, se sì, posso. C'è un modo di dire molto diffuso che si impara fin dai banchi dell'università: summum ius summa ignoria. L'interpretazione più corretta dal punto di vista tecnico, dal punto di vista formale, può essere scorretta sul piano della sostanza. È questo il caso, secondo lei? Potrebbe essere il caso. Un magistrato molto più bravo di me, Vladimiro Zagrebeschi, ha scritto ieri sulla stampa di Torino che la Corte di Cassazione francese, pochi giorni fa, proprio in materia di prescrizione, ha cambiato il proprio orientamento, ha cambiato interpretazione. Per impedire che si prescrivessero delitti orrendi, rimasti a lungo nascosti, ha stabilito, innovando, cambiando orientamento, che la prescrizione decorre dal momento della notizia criminis, dal momento in cui si conosce il reato e quindi dal momento in cui può cominciare il procedimento. Sì. E ha concluso Vladimiro Zagrebeschi con queste testuali parole: la nostra Cassazione non ha avuto, è mancata la nostra Cassazione, la capacità di affermare un diritto che non oltraggia la giustizia. Ne soffrirà la fiducia dei cittadini nella legge. Non è un giustizialista, non è un barricardero, questo è un magistrato che ha lavorato alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, quindi mi sembra che il suo modo di affrontare questo problema debba essere rispettato tanto quanto la sentenza della Cassazione, che poi leggeremo nella sua motivazione. Io intanto ringrazio Giancarlo Caselli, che è stato a capo della Procura di Torino fino a qualche mese fa, con Bruno Pesce. Tra un attimo riprendiamo, dopo la pubblicità ci raggiungerà anche Romana Blasotti Pavesi, che è presidente dell'Associazione Familiari Vittime dell'Amianto, ha avuto 5 morti in famiglia, e sentiremo sempre i risolini dell'ex amministratore delegato dell'Eternit Svizzera, Holte. 24 mattino. Alle 8:40 minuti, dopo aver sentito il procuratore Caselli, Giancarlo Caselli, che ha guidato la procura anche di Torino fino a qualche tempo fa, io voglio salutare, la ringrazio, Romana Blasotti Pavesi, che presiede l'Associazione Familiari Vittime dell'Amianto. Buongiorno, signora Blasotti. Buongiorno. Una signora, io, di quanti anni si può dire? Sono Romana Senza, signora di 85 anni. Romana di 85 anni, una donna che è stata temprata molto dalla vita, perché lei quanti familiari ha perso per l'amianto? 5. 5 familiari, cioè il marito? Il marito, che era l'unico lavoratore della Eten, mia sorella, 59 anni, una cugina che era una sarta, il figlio di mia sorella, 50 anni, e dopo 8 mesi, senza sapere di essere già malata, mia figlia, anche 50enne. Ovviamente io l'ho conosciuta quando venne appunto nel 2008 a Casale, e l'abbiamo vista sempre così combattiva. Prima anche il procuratore Caselli ci ha detto, beh, insomma, la sensazione è quella di una giustizia negata, di un'impotenza. Perché c'è ancora la voglia di combattere? Ha sentito che la procura ora vuole indagare per omicidio. Ma per lui. Perché ancora, rispondo? Sì, certo. Perché ancora i morti continuano a morire per causa della amianto, per il mesotelioma? Perché sono anni e anni che morivano 20 all'anno, adesso ne muoiono 50. 20 giorni fa è morta una ragazza di 28 anni. Perché nonostante ciò che si è fatto di bonifica, almeno non tutta, ma almeno tentato, e si muore ancora? Perché? Ricordiamo che quest'anno sono morte 50 persone, 50 già a Casale, persone per la stessa, a Casale Monferrato, per la stessa malattia causata per il mesotelioma. E ricordiamoci che il mesotelioma non è uguale per tutti, è tanto vario per tante, ognuno è il suo mesotelioma, non assomiglia uno all'altro, però purtroppo non dà tregua e non ci aiuta, ci fa morire. Però le chiedo questo, Romana, dopo la sentenza della Cassazione si è sentito vergogna, sdegno e anche ovviamente una certa sfiducia nella giustizia. Perché invece adesso pensate che la procura ce la possa fare con il nuovo processo per 256 omicidi? Allora, io sinceramente completamente non conosco il modo di giustizia, ok, ma diciamoci la verità, ultimamente quanti sono più o meno condannati, sarà anche il dover essere sicuri della condanna e poi chiedono di essere mandati ai servizi sociali, agli arresti familiari, oppure di aver meno pene. Perché? Perché più sono criminali e non si è stato ancora, non ci è ancora stato assicurato, non abbiamo ascoltato per tutte le udienze che ci sono state fatte a Torino da testimoni, da chi non ha potuto smentire neanche gli avvocati da parte del criminale Smidaine, che quello era successo, perché è stato pagato e pagate le spie perché raccontassero quello che facevamo per poterci difendere. Cosa possiamo fare noi per difendersi? Che abbiamo il diritto della vita. Io le vorrei fare ascoltare, già era successo in passato, un altro stralcio di quello che mi disse Anders Holte, che è l'ex amministratore delegato di Eten in Svizzera, perché di Schmidaini i proprietari non hanno mai parlato. Anders Holte, senta cosa mi disse nel 2008, quando venne a Casale. Mr. Holte, lei ha mai incontrato vittime dell'amianto? Sì, ho incontrato anche persone che stavano soffrendo molto. E cosa vi siete detti? Sono stati incontri molto intimi e personali. Non credo di poterne parlare. È una grande tragedia per le persone colpite da queste malattie. È troppo serio parlarne per radio. Non è una bella situazione. Non so se lei ne ha incontrati. L'ho fatto in settimana. Con persone in fin di vita. Alcuni forse moriranno. Comunque sono persone malate croniche. Strano, mi sembra di ottimo umore. Io non ero così felice un paio di giorni dopo aver incontrato queste persone. E poi l'intervista finì così. Insomma, era molto ridanciano sempre. Sì, ignorante. Ignorante, perché non è vero, nessuno si è salvato finora del mesotelioma, assolutamente nessuno. E poi no, non lo dica che l'ha fatto, lo dimostri che l'ha fatto, che ha visto una persona ammalata di mesotelioma, lo dimostri, non lo dica solo. E poi il particolare della morte continua, noi tutte le settimane, e qualcosa ci succede di sentirne anche due persone alla settimana che mancano o che sappiamo che sono ammalate. E guarda caso, quando sappiamo che una persona è ammalata, la vediamo seguire per qualche mese, come è stato per mia figlia 5 mesi, come il fratello di Giuliana per soli 3 mesi, come il fratello di Mariuccia per un solo mese o per i 10 anni, l'unico caso nella zona casalese, l'unico, ma sta sempre più male. Poi 10 anni sono 10 anni di sofferenza. Di cosa sono 10 anni? Di vedere crescere i suoi figli con la paura di lasciarli, che erano bambini e non sono ancora uomini. Quindi non parlino con tanta cattiveria come ha fatto Coppi nella sua la giornata dell'altro ieri, che è stato veramente, lo vorrei dire a lui, quasi volgare nel non nominare quel poco che ha nominato delle vittime. Ma le vittime quando muoiono, le persone che sono normali quando muoiono, perché devono morire? Ma per quale ragione? Per solo per soldi? Ma si soffocano nei loro soldi. No, non ho l'abitudine di dire non lo dica. Intanto Romana, noi le mandiamo un grosso abbraccio, chissà, magari anche in questo paese un po' così, in cui si vuole adesso il giorno dopo mettere mano alla prescrizione, che ci dice il procuratore Caselli non si è messo mano a questo istituto per 90 anni, ci sarà anche un giorno giustizia. 24 mattino. Allora, cambiamo decisamente pagina per concludere questa puntata di 24 Mattino e voglio salutare uno dei consiglieri di amministrazione della RAI, Antonio Verro. Buongiorno, come sta? Ben ritrovato, Verro. Buongiorno, buongiorno, è da parecchio che non ci siamo. È colui che ha fatto l'ordine del giorno dello scalpore, no? L'ordine del giorno votato poi a maggioranza, approvato dal consiglio di amministrazione che si è spaccato, Luisa Todini che si dimette, per cui il consiglio di amministrazione fa causa al governo. Insomma, ma com'è possibile che si fa causa a un azionista, voi che siete manager, che dovete fare il bene dell'azienda? Adesso glielo dico e vorrei tra l'altro chiarire un po' le motivazioni a sostegno di questa decisione, però io mi chiedo e chiederei a tutti quelli che hanno criticato questa nostra decisione, come mai tutti sono stati zitti quando a febbraio di quest'anno all'unanimità il consiglio di amministrazione ha deciso esattamente la stessa cosa contro il decreto Zanonato che aveva, non aveva concesso l'adeguamento Istat al canone. Sì, allora, è vero, ci fu ricorso, ci fu ricorso all'unanimità e credo che i giornali forse non abbiano neanche dato notizia o l'abbiano appena data. E quindi non c'è stata questa levata di scudi del mondo mediatico, del mondo politico. E perché adesso sì? Io ho una mia risposta. Allora, Presidente, allora glielo dico, non dovrei dirglielo, ma glielo dico perché è una lettura maliziosa. E me la dia la sua lettura. Perché allora il Presidente del Consiglio era Letta, che era ormai, come dire, in una fase abbastanza. Adesso c'è un Presidente del Consiglio rampante, in ascesa, eccetera, e quindi si vuole un po' cavalcare strumentalmente e mediaticamente la cosa, ma andiamo al merito della questione. Cioè, io vorrei chiarire subito, non è che io e immagino anche, anzi sono certo che anche i miei colleghi che hanno votato a favore siamo contro i tagli, i risparmi, ma ci mancherebbe altro che in un momento drammatico del paese dal punto di vista economico, con gente che non arriva a fine mese, con commercianti che si suicidano, eccetera. Noi, e in questo devo dire che Gubitosi è stato molto bravo, abbiamo operato concretamente parecchie azioni di risanamento. Certo, ancora ci immagino che sarà molto da fare, ma il problema è uno, che non è che tu puoi fare il risparmio in barba della legge. Cioè, i risparmi vanno fatti, ma due paletti vanno rispettati. Uno è che è di carattere generale, e cioè il rispetto delle regole. E qui non sono state rispettate. Secondo è il pluralismo. Ma veda, cioè, a me fanno ridere quando dicono è una decisione politica contro il governo, eccetera. Ma secondo lei è possibile che una decisione del genere assunta da sei consiglieri di amministrazione con storie politiche, culturali, provenienze... È vero, anche quelli di sinistra, come si definiscono, Tobagi, andiamo da Tobagi e Colombo Società Civile, il rappresentante tecnico del Tesoro, noi che siamo stati designati dal centrodestra, i sindacati, tutti i dipendenti, illustri giuristi che ci dicono guardate che qui ci sono fondatissimi dubbi di incostituzionalità, le televisioni europee che scrivono a Napolitano dicendo guardate che questa cosa dell'ingerenza del governo cioè mette la posizione la RAI in una posizione subordinata nei confronti del governo, e questo è un precedente pericoloso. Però ha sentito Gubitosi a dire un manager che va contro il suo azionista dovrebbe dimettersi, come ha fatto Rattorini. Lui ha detto i consiglieri che vanno chiariamo subito, la Todini si è dimessa perché l'aveva annunciato 7 mesi fa. Se vuol sapere la mia opinione come opportunità politica, la Todini si è dimessa con 7 mesi di ritardo, punto. Quindi, come dire, ha preso la palla al balzo di sta roba qui, eccetera, per così avere un po' di clamore mediatico, ma la verità vera è che la Todini, quando è stata eletta presidente delle poste, doveva dimettersi subito. Ma, allora, non per obbligo giuridico, per opportunità. E allora ha detto, finisco quelle cose che ci sono in ballo e poi mi dimetto. Questa roba qui è durata 7 mesi, quindi non c'entra niente, diciamo. Però Gubitosi dice che anche lei dovrebbe dire, che anche la Tobagi, che anche ma io non ci penso proprio, ma perché mi devo dimettere perché sono indipendente dal governo e perché voglio il bene della Io glielo chiedo e lei risponde a Gubitosi. Sa che oggi la stampa racconta che un piano del governo è azzerare il CDA della RAI? Ne prenderemo atto. Allora, io sono convinto che il mio azionista non è il governo, ma il mio azionista sono i cittadini che pagano il canone, e per essi cittadini è il Parlamento. Quindi io sono stato eletto dal Parlamento e io rispondo al Parlamento. Quanto alle dimissioni, io ho girato la frittata a Gubitosi, cioè io non ci penso a dimettermi perché anzi sono orgogliosamente convinto di aver fatto l'interesse dell'azienda. Cioè si deve dimettere lui. Ma no, se lui ha dubbi, siccome lui ha dubbi, mi pare di capire che lui ha dubbi nell'applicazione di questa delibera, siccome lui è un dipendente dell'azienda, è il dirigente numero uno, lui ha il dovere e l'obbligo di eseguire le volontà del Consiglio. Se è d'accordo, bene, se non è d'accordo si dimetta. L'ultima domanda, Verro, che poi la devo salutare. Il canone in bolletta Rai, il canone Rai in bolletta lo voglio mettere con la legge di stabilità. Lei è a favore o contro questo? Ma io sono a favore, perché è una cosa che era già stata quasi portata a compimento, mi ricordo, Romani, ai tempi del governo Berlusconi, sì, eccetera. È un modo, guardi, per eliminare in radice, diciamo, quasi totalmente l'evasione fiscale. Ed è un modo per far pagare di meno dopo che hanno pagato tutti. Quindi lei sono assolutamente d'accordo. Però se ne parla da tempo e poi non si fa mai. E forse è la volta buona. Lei dice c'è un presidente forte questa volta. Speriamo tanto. Rampante lei l'ha definito, per la verità. Grazie ad Antonio Verro per essere stato con noi, consigliere di amministrazione della RAI. Con lui concludiamo questa puntata e questa settimana, per carità, decisiva, 81esima per la riforma elettorale e l'abolizione delle province. Non è successo niente, ma l'82esima è alle porte e noi siamo ottimisti, ottimisti. Grazie a Lorenzo Nespoli, Alessandro Longoni ed Elisabetta Fusconi in redazione. Insieme a Peter Bescapè, l'Alpino in regia, vi diamo appuntamento settimana prossima alle 6.30. Eccoli qua gli Alpini, allora lascio a loro e vi saluto. Bosch Car Service. Fino a gennaio in tutte le officine aderenti, grandi offerte per il cambio di filtri a olio. Vi ha presentato 24 mattino.